Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi vi invito a incontrare uno dei personaggi più famosi della letteratura universale, cara a grandi e piccini. È un personaggio che abbiamo visto da poco, tra l'altro, sugli schermi nell'ultima trasposizione cinematografica, è quella di James Bobin con Johnny Depp, e cioè parlo di Alice. Il film è Alice attraverso lo specchio e il libro che vi propongo è naturalmente Alice nel Paese delle Meraviglie, cui fece seguito Alice attraverso lo specchio di Lewis Carroll, riproposto da Rizzo con le illustrazioni di Sir John Tennelly, disegnatore voluto personalmente da Carroll, che tra parentesi si chiamava Charles Lutwidge Dodgson, per la prima edizione del 1865. E anche la traduzione che propone Rizzoli è significativa, perché è quella di Masolino d'Amico. L'edizione è anche ricca di note di uno studioso anglosassone, Martin Gardner, 366 pagine, 16 euro. Che aggiungere, che dire su Alice? È stato scritto tutto il contrario di tutto su di lei, diciamo solo che è una lettura, quella del doppio libro di Carroll, tra le più esilaranti e stimolanti, ricca di calembour, di indovinelli, di richiami matematici, che ne fanno un libro appunto unico ed eterno. Ma abbiamo intercettato, oltre lo specchio dello studio, la stessa Alice, che sentiamo in questa intervista impossibile, alla quale le dà voce la scrittrice Edgarda Ferri. Buonasera Alice. Buonasera, grazie. Allora, innanzitutto Alice, si sarebbe mai aspettato di diventare un mito universale, un mito della letteratura, un mito dei lettori piccini, ma anche adulti, anzi forse soprattutto adulti ormai? Sì, secondo me soprattutto adulti. No, non me l'aspettavo, perché l'avevo preso, in effetti è un gioco, una fiaba, quindi non me l'aspettavo. Mi sarebbe piaciuto, anzi mi dispiace moltissimo di avere nell'immaginario collettivo di esserne uscita come una sciocca. Alice nel Paese delle Meraviglie è una bambina curiosa che continua a fare domande, e invece nell'immaginario Alice è vista come una scemetta che non sa, che guarda le cose senza capire dov'è. Ecco, quindi questo sì, è un mito alla rovescia, oppure fa parte del nonsense di questa storia che è tutta insensata. Lei che ne dice? Ma io dico che ha toccato uno dei punti fondamentali, cioè che Carroll ha giocato molto sul nonsenso, in fondo ricordandoci che la vita molto spesso è proprio un nonsenso. Sì, l'aveva detto anche Shakespeare nel Macbeth. Ma aveva detto Shakespeare, Macbeth, la vita è una storia narrata da un idiota, piena di contrasti e di rumori, di confusioni, e priva di senso. Insomma, è un po' deludente, ma una radice di vero c'è anche in questo, no? Però Alice, non voglio farle un complimento, ma mi sembra tutt'altro che una sciocca, anche perché non fa altro che continuare a far domande, è curiosa, è reattiva, e soprattutto appunto non accetta nulla per come assolutamente sicuro, ma si pone sempre dei dubbi e soprattutto li pone ai suoi assurdi interlocutori. Infatti, allora, prima di tutto c'è questa Alice, io sono andata in giro in questo mondo alla rovescia, pieno di cose meravigliose, assurde, insensate, continuando a fare delle domande. Nessuno mi ha mai risposto. Allora io mi domando, Carroll quando ha scritto questa favola voleva polemizzare contro gli adulti che non danno mai delle risposte ai bambini? Siamo ancora lì? Ecco, questa cosa. Perché nessuno risponde ai bambini. Un'altra cosa che ho trovato molto violenta nella storia dei personaggi di Alice nei confronti di lei. La chiamano, mi chiamavano, in continuazione non mi hanno mai chiamato per nome, sempre bambina. Ecco, io trovo questa cosa abbastanza anche sessista, cioè bambina, ma io ho un nome, avevo un nome anche quando avevo 7 anni, avevo partecipato, ero piombata in questo sogno insensato, ma pieno di cose meravigliose, e continuavo a fare delle domande, non solo non mi rispondevano, ma mi chiamavano sempre bambina. Taci tu bambina, come fanno ancora qualche volta gli adulti nei confronti dei bambini. Poi un'altra cosa che non ho mai gradito di loro, anzi soltanto da una, però una è la parte per il tutto, cioè la granduchessa che mi chiamava. Mi diceva, per farmi non un complimento, ma per mettermi a tacere, mi diceva carina, che è una cosa terribile anche per una bambina. Carina che cosa vuol dire? Adesso, non bella no, vogliono dire che non sei bella, però sei carina. E poi è proprio un termine che io trovo quasi dispregiativo, no? Stacci tu carina, hai capito carina? Ecco, queste cose degli adulti di là, che erano privi di senso in tutto, io mi sarei aspettata che mi avessero chiamato in un'altra maniera, soprattutto che mi avessero chiamato Alice non bambina. E questi viaggi, questa fuga appunto nella indeterminatezza anche del nome, secondo lei dimostra anche una sua affermazione per assumere un'identità? Insomma, questi due libri, questi due racconti rappresentano anche una sua crisi d'identità? Molto ben rappresentata la crisi di identità, perché questa l'abbiamo, io l'avevo, ci sono ancora, continuiamo ad averla, poi alla fine non riusciamo mai ad avere bene chiaro l'idea di la consapevolezza di che cosa siamo. E la crisi di identità in me, bambina a 7 anni, si scatena quando mangio una caramella e divento immensa, mi spavento perché naturalmente vedo tutto il resto del mondo piccolino, poi mi dicono prendi, succhia un'altra cosa e divento piccolissima, continuo a cambiare dimensione e continuo naturalmente a cambiare rapporto con gli altri. Questa è una crisi di smarrimento di identità molto forte, ma anche molto vera, soprattutto non a 7 anni, ma un pochino più grandi, le bambine, credo anche i bambini, ci si sente sempre continuamente diversi, si va a cercare un posto e si è sempre a disagio. Questo secondo me è stato raccontato molto bene e io l'ho vissuto anche con molto stupore e con molta partecipazione, perché questa cosa era mia. La vivevo non come se fosse un sogno, come poi è saltato fuori, ma come se fosse veramente una parte di me. E che impressione le ha fatto scoprire il potere così come lo gestisce la crudele regina di quadri? Allora, da una parte, naturalmente, essendo una bambina, ridevo come una pazza, prima di tutto per l'aspetto di una regina molto smitizzata, perché io venivo da favole dove delle regine principesse erano sempre bellissime, ben vestite, così. Questa arriva avanti, è una carta da gioco, piatta davanti, piatta di dietro, bruttissima, con questo mento aguzzo che cerca tra l'altro ogni tanto di perforarmi una spalla. E questa qua in un primo momento mi terrorizza, perché non fa altro, avanza gridando, dicendo, ordinando, tagliate la testa, decapitateli tutti, e cioè, è tutto un ordinare di tagliare la testa. In un primo momento tutto questo mi spaventa molto, poi come tutti i bambini che hanno un senso dell'umorismo e sono più logici degli adulti, si rende conto che è un gioco, che questa blatera, poi le teste non saltano giù, e allora si mette a ridere, quindi smitizza la regina, smitizza il potere. Visto come oggi, come adulta, io oggi leggo soltanto questa storia di questa donna che ordina sgozzateli, mi fa venire i brividi. Quindi questo è il senso di che cos'è la favola e che valore ha la favola trasportata nel tempo. 100 anni fa poteva fare ridere anche gli adulti, adesso se noi leggiamo da adulti oggi un pezzo di carta che continua a parlare di sgozzamenti e di decapitazioni, ci viene l'orrore. Grazie ad Alice, alla quale ha dato voce la scrittrice Edgarda Ferri. Buona serata. Grazie altrettanto, buon Ferragosto. posto. E un ritratto di Carroll troviamo nel libro di Giuseppe Marcenaro, Daguerrotip, pubblicato da Ragno, 262 pagine, 25 euro. I daguerrotipi sono gli antenati della fotografia, come sapete. Qui Marcenaro ci dà una imperdibile serie di personaggi, non tutti famosissimi o necessariamente edificanti. Ce ne sono anche di molti famosi, c'è Casanova, Da Ponte, Byron, Stendhal e tanti altri, in totale sono 25. Fra questi c'è anche appunto il reverendo Dodson, di cui Marcenaro esplora un aspetto molto particolare, ormai altrettanto noto, ma sempre foriero di grandi interrogativi, e cioè la passione che Carroll ebbe di fotografare giovanissime ragazzine. Pare ne abbia fotografate almeno 700, una passione che in qualche modo rappresenta proprio l'altra faccia di Alice, perché, come scrive l'autore, è impossibile non evocare l'eroina celeberrima infilatasi nel paese dell'aldilà passando attraverso uno specchio, o uno specchio dotato di memoria, o meglio ancora per mezzo delle visioni rovesciate, come avviene all'interno di una camera oscura. Molte di queste ragazzine saranno poi fotografate anche prive di vesti in un autentico studio fotografico che aveva predisposto lo scrittore, colmo di bambole e di giocattoli. E durante proprio un'escursione in barca sul fiume con alcune di queste bambine, Carroll avrebbe cominciato a raccontare loro quello che poi sarebbe diventata proprio la storia, anzi le storie di Alice. Non avremmo saputo più nulla su queste fotografie per molti anni se alcune delle modelle non avessero poi rievocato senza imbarazzo i loro incontri col reverendo. È un libro ricco di humor britannico e l'ultimo pubblicato in Italia, e nonché l'ultimo della carriera di una famosa scrittrice inglese morta nel 1992, Angela Carter. Figlie sagge è pubblicato da Fazzi, 336 pagine, 18 euro, tradotto da Rossella Bernascone e Cristina Iuli. Le figlie sagge sono due gemelle 75enni, Dora e Nora, attrici e ballerine di non eccelsa fama, convocate all'improvviso dal padre, che invece è un celebre attore, che compie 100 anni. L'invito le sorprende perché il padre non le ha mai considerate, non le ha neanche riconosciute. Ma da questo invito deriverà una serie di gag, di fili narrativi dominati da un potente corrosivo senso dell'umorismo, a partire dalla descrizione della parte sbagliata di Londra in cui le due protagoniste erano nate, che qui vi propongo. Buongiorno, lasciate che mi presenti. Mi chiamo Dora Chance. Benvenuti nel lato sbagliato della città. In altre parole, se venite dagli States, pensate a Manhattan, poi a Brooklyn. Mi spiego? Per un parigino è probabilmente una questione di Rive Gauche e di Rive Droit. Ma a Londra si tratta della barriera nord-sud. Io e Nora, mia sorella, siamo sempre vissute sulla sponda sinistra, quella che i turisti di solito non vedono, la sponda bastarda del vecchio padre Tamigi. Tanto tempo fa si poteva fare una netta distinzione. A nord, i ricchi vivevano tra le amenità del verde e venivano scaraventati in un attimo nello shopping esclusivo da un efficiente servizio di trasporti pubblici. A sud, invece, i poveri arrancavano nel totale degrado, condannati ad attendere per ore alla fermata del bus, mentre attorno rimbombava l'eco di violenze domestiche, vetri infranti e cori ubriachi. E tutto era avvolto dal freddo, dal buio e dall'olezzo di fish and chips. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di alcuni libri sul viaggio, in particolare sul viaggio in Italia. Cominciamo con quello di un grande esperto di architettura, Cesare De Seta, che è uno dei maggiori studiosi del rapporto tra ambiente e città. Il libro di De Seta si intitola L'arte del viaggio, città, paesaggi, divagazioni tra passato e futuro, è pubblicato da Rizzoli, 544 pagine, 21 euro, un libro affascinante, ricchissimo di spunti, alcuni teorici su come stia evolvendo il concetto stesso di città, moltissimi altri legati a luoghi italiani e non, che De Seta descrive nella loro caratteristiche, che in qualche misura segnano anche il loro destino. Milano, per esempio, è la prima città che apre questo libro e viene definita da De Seta come la città della ragione pratica, espressione, aggiunge, di quello spirito operoso e industrioso, di quel bisogno di parsimonia e di sobrietà, di caparbia dedizione alle opere e ai mestieri, che è la radice intima di quel nuovo spirito dei tempi che si dirà il capitalismo. Roma, invece, è una capitale strozzata, la definisce De Seta, perché in quel piccolo spazio compreso tra la doppia ansa del Tevere, spiega l'autore, si sono concentrate ogni genere di attività, le più alte magistrature della Repubblica, la sede degli enti locali, i centri commerciali terziari e quaternari, la sempre più mastodontica università, la sede del Vaticano con annessi e connessi, una sorta di miscela, un nodo sempre più ingarbugliato a sciogliere il quale ci si sono provati in molti, con scarsi mezzi, poca chiarezza di idee e con la innata vocazione alla più sublime inettitudine. Speriamo che il sindaco nuovo sappia affrontare questa situazione. Ma non ci sono soltanto mete italiane, come vi dicevo, in questo libro. Alcune italiane, per la verità, sono anche particolarmente affascinanti, ma anche altrettanto poco note, per esempio Salleucio, la Certosa di Padula. E parlando di altre mete, De Seta non cessa mai di cogliere aspetti culturali e sociali dell'architettura. Per esempio, in Francia studia il rapporto tra architettura e potere. A un altro viaggio speciale in Italia ci invita Tiziano Fratus, un grande studioso e appassionato, ma credo che egli se ne sente addirittura fratello degli alberi. Il viaggio particolare è quello contenuto nel libro L'Italia è un giardino, passeggiate tra natura selvaggia e geometrie neoclassiche, pubblicato dalla Terza, 218 pagine, 18 euro. Qui troviamo 23 mete divise in tre gruppi, giardini caratterizzati dagli spazi immensi, come la Reggia di Caserta, la Villa Reale di Monza, la Villa di Venaria Reale, i giardini dominati dall'acqua, e naturalmente qui troviamo Tivoli, i giardini che lasciano spazio alla natura selvaggia, da Villa Carlotta al Parco di Pinocchio. E sentiamo che cosa possa rappresentare questo viaggio nei parchi e nei giardini. In ciascuno di questi luoghi, fedele a una radice portante, alla radice fondamentale del mio vivere da Homo Radix, ho messo alla prova il bambino che sta dentro di me, mischiando facili e istintive gioie alla meditazione del tempo che consuma e cancella. L'Italia che ho attraversato è spesso amata più dai visitatori stranieri che da noi che qui ci nasciamo, cresciamo e costruiamo il nostro destino. È una geografia fisica e sentimentale, dove l'immaginario ha lavorato a fondo, nel quale persone del passato, ma non di meno del presente, operano per coltivare una curiosa forma d'arte che non sembra avere mercato, ma che dimostra di possedere un valore inestimabile. È l'arte di inventare forme di natura selvaggia. E al termine del libro troviamo un elenco molto più fitto di tutti i giardini italiani che meritano un viaggio. Ne troverete veramente tanti. E a proposito di giardini, vi segnalo di Franco Botta e Giuseppe Caccavale Mal di Giardino, Natura e Arte del Verde, pubblicato da Progedit, 104 pagine, 15 euro, che contiene delle riflessioni sul giardino e su come fare i giardinieri, magari coltivando l'obiettivo di realizzare un giardino felice, come dicono gli autori, che è tale, come essi stessi ci spiegano, quando il giardino, non stressato dai desideri impossibili degli umani, segnala che in quel luogo un uomo o una donna si sono riconciliati con la natura. Spesso questo accade più facilmente quando il giardiniere è un dilettante e non un professionista, e quindi diamoci da fare col giardinaggio. Soprattutto, ma non esclusivamente italiani, sono i percorsi che ci presenta Federico Pace, che è un giornalista e scrittore, autore de La libertà viaggia in treno, pubblicato dalla Terza, 196 pagine, 15 euro. Qui troviamo altri 23 tragitti, questi ferroviari, italiani e non soltanto, che ci fanno riscoprire il fascino del viaggiare lento. Ogni capitolo si conclude con le indicazioni geografiche dell'itinerario e col tempo necessario a percorrerlo. Pace è un grande esperto del tema e nelle ultime righe del libro vi descrive la felicità del vero viaggiatore, che si può permettere la libertà di decidere all'ultimo minuto la meta, di modificarla e di scoprirne sempre di nuove. Sentiamo per esempio dal libro di Pace come appaia il Vesuvio da chi sia salito sulla ferrovia circumvesuviana. Prima di partire, Prima di salire sulla ferrovia che lo cinge, lo scruta e lo cerca. Il Vesuvio è per il viaggiatore un cono proteso verso il cielo, una punta aguzza, una piramide da cui esce uno sbuffo di fumo. Un ritratto, un paesaggio. È l'idea del vulcano. Poi, quando si sale sulla Circumvesuviana, poco prima delle 10:30 del mattino, quando si comincia a cercarne il profilo, usciti dai sotterranei di Napoli Garibaldi, lontani dalle scale, dalle luci al neon del bar sottoterra, dopo aver passato la stazione di via Gianturco, quando si comincia a guardare attraverso le ampie finestre di questo trenino elettrico, dopo che si è incrociata la sagoma triste di un ragazzo di colore, con un carrello e una busta nera, proprio mentre la ferrovia corre parallela, vicinissima, come se ne fosse parte al primo tratto della Napoli-Reggio Calabria, dopo aver superato le carcasse di altri vagoni della Circumvesuviana di altri tempi, il Vesuvio, tra le nuvole, in un cielo grigio, appare diverso, sdoppiato, assai poco somigliante a quel che si pensava. Il vulcano si mostra in pieno giorno nelle nebbie remote come un animale marino a due gobbe. Infine parliamo di montagne, anche qui da un punto di vista particolare, quello di Enrico Camanni, che è un alpinista e giornalista e che ha scritto Alpi ribelli, storie di montagna, resistenze e utopie, pubblicato dalla Terza, 238 pagine, 18 euro. Questo è un libro che parla di vicende storiche e politiche ambientate nella montagna, una montagna che è cambiata per effetto di tre parole che non esistevano nel vocabolario alpino, scrive l'autore: velocità, motorizzazione, cemento. In altri termini, sci, automobili e condomini. Risultato di questo processo è che oggi le Alpi, spiega, sono un impasto di innovazione e tradizione, globale e locale, modernismo e nostalgia, fondati nel cuore della vecchia Europa. Le distanze tra montagne e città si sono ridotte a colpi di autostrada e banda larga. Ma ogni tanto, aggiunge l'autore, la montagna si ricorda di essere diversa e fa sentire la sua voce fuori dal coro. Si ricorda di aver ospitato movimenti contestatori di varia natura, a partire dal movimento ereticale di Fradolcino, dalla presenza dei Valdesi fino alla guerra partigiana, e naturalmente ai Notav, che comunque li si giudichi, si inseriscono appieno in questa tradizione. E particolarmente significativo nel libro è il ricordo di Guido Rossa, il sindacalista che fu ammazzato dalle Brigate Rosse nel 1979, che era egli stesso un grande alpinista e anzi un innovatore di quella disciplina, spesso molto in anticipo sulle tendenze che si sarebbero affermate diversi anni dopo. Un altro alpinista e storico dell'alpinismo, Pietro Crivellaro, ci porta invece sulla cima di una delle più belle e difficili montagne di tutte le Alpi, e non soltanto, e cioè il Cervino, né la battaglia del Cervino, la vera storia della conquista, pubblicato dalla Terza, 212 pagine, 18 euro. Il Cervino è una montagna dalla storia affascinante che fu conquistata poco più di 150 anni fa grazie a un'impresa difficile sulla quale si erano esercitati molti e che presenta ancora molti aspetti da chiarire. E proprio sulle ultime vicende, sulla conquista avvenuta 150 anni fa del Cervino, indaga Crivellaro, che collega l'ascensione anche al quadro politico e sociale dell'Italia che era da poco unificata, arricchendo il racconto con immagini e con testimonianze che ci fanno cogliere quanto quell'impresa avesse elettrizzato tutta l'Europa. E a questo punto il confettino. Vi segnalo tre libri per scoprire l'Italia assieme ai nostri ragazzi. Il primo è Regioni d'Italia di Gianluca Biscalchin, sottotitolo Città, borghi, natura, arte, cibo, personaggi, storia e tradizione, pubblicato da Electra Kids, 128 pagine, 22 euro, un libro di grande formato, veramente utile per avvicinare i ragazzi alla natura, all'arte e alla storia delle regioni italiane. Sicuramente anche gli adulti avranno qualcosa da imparare divertendosi. Poi vi segnalo una guida o un invito particolare, che è quello di Ilaria e Simone Marchesi, che sono due docenti di letteratura classica, una è italiana, l'altro negli Stati Uniti, e che hanno pubblicato Live in Pompei, è pubblicato dalla Terza, 125 pagine. Questo non è propriamente un libro per bambini, ma un libro per cogliere assieme ai ragazzi e ai bambini gli aspetti più sorprendenti e interessanti di una delle mete universalmente più note dell'Italia, cioè appunto Pompei. Poi vi segnalo un'altra guida, che è Che bontà di Giuliana Rotondi, pubblicata da Einaudi Ragazzi, 116 pagine, 14,90 euro. Un altro libro utile e piacevole, illustrato da Elenia Beretta, per scoprire i segreti dei piatti più amati dagli italiani e magari per smontare qualche equivoco, per esempio quella, come ci spiega l'autrice, che la pasta sia stata inventata dai cinesi. Ormai dimostrato, scrivono, che la notizia che diede Marco Polo fu solo l'interpretazione sbagliata di un giornalista americano, e quindi possiamo essere fieri della nostra invenzione. E a proposito di gusto italiano, vi segnalo questo è un libro per adulti naturalmente, di Davide Paolini, una voce molto cara agli ascoltatori di questa radio, alla scoperta del gusto italiano, che è pubblicato da 24 ore Cultura, 240 pagine, 19,90 €, che è un percorso nelle delizie del cibo italiano e tra 50 dei suoi protagonisti più affermati, che spesso non sono conosciuti quanto meriterebbero. Ultimi arrivi. Vi segnalo tre libri adatti alle letture estive. Il primo libro importante di uno scrittore ed editore italiano, Roberto Calasso, autore per la sua casa editrice Adelphi del libro Il cacciatore celeste, 508 pagine, 27 €. Un libro importante, come dicevo, come gli altri precedenti di Calasso, che ci porta alle origini del mito, in particolare ci fa scoprire il momento in cui l'uomo si fece cacciatore, dando vita a leggende e interpretazioni di cui sono ricche tutte le civiltà. E poi le novelle di un maestro di questo genere, l'inglese Roald Dahl, l'autore di Fabbriche di cioccolato e di tanti racconti pubblicati integralmente adesso da Longanesi con varie traduzioni, 828 pagine, 24 €. Questo è un libro perfetto per brevi, divertenti, appassionanti letture che non riuscirete ad abbandonare. Tra l'altro di Dahl sentiremo parlare nei prossimi giorni, perché il 13 settembre cadrà il centenario della nascita dello scrittore. E infine un classico del Novecento, della Mitteleuropa, l'autore Gregor von Rezzori, vissuto tra il 1914 e il 1998, uno dei più grandi autori della morente civiltà austro-ungarica. Questo libro si intitola L'ultima fermata ed è del 1976, riproposto da Guanda, curato da Andrea Landolfi, 250 pagine, 20 €, costruito intorno alla decisione di un ricco armeno americano di fare un viaggio a ritroso verso le proprie origini, un viaggio che gli farà scoprire tutte le miserie di un presente volgare, omologato e banale. Prima di lasciarci ricordiamo un grande poeta del Novecento, di cui nei prossimi giorni cadrà l'80° anniversario della tragica morte. Mi riferisco a Federico García Lorca, che fu fucilato tra il 17 e il 19 agosto del 1936 a Biznar dai ribelli franchisti. Il corpo del poeta non sarebbe più stato ritrovato. Gli dedica un'appassionata biografia un ispanista, Gabriele Morelli, che ha scritto García Lorca, pubblicato da Salerno, 316 pagine, 16 €. Poeta andaluso, poeta spagnolo, poeta universale, l'unico che a distanza di 80 anni dalla scomparsa ha superato indenne l'usura del tempo e, come Dante, è ricordato con il solo nome di battesimo, Federico. Così Morelli ci presenta il poeta, di cui seguiamo nel libro passo passo l'itinerario artistico che lo renderà famoso non soltanto nel suo paese ma anche negli Stati Uniti e in America Latina. E la sua carriera culmina in una delle poesie più note del Novecento, Alle 5 della sera, che, come ricorda l'autore, diventerà popolarissimo anche in Italia, soprattutto negli anni 60 del Novecento, grazie anche alla recitazione che ne fecero due mostri sacri come Vittorio Gassman e Arnoldo Foà. Un altro personaggio che incontrò García Lorca fu Indro Montanelli. Lo incontrò nel 1935 a Madrid. Immediatamente non scrisse nulla su quell'incontro, poi pubblicò soltanto nel 1951 la cronaca di questo scambio che ebbe con il poeta. L'incontro non deve essere stato felicissimo, ma in questo ritratto Montanelli ricorda le tre cose stupende che Lorca possedeva, e cioè, dice il giornalista italiano, lo sguardo luminoso, la risata di bambino e la voce, la cui baritonale calda gravità ricordava il cante hondo che trema come un accompagnamento di chitarra nei suoi poemi. Poi Montanelli ricorda la grande amicizia, la profonda amicizia che legò Lorca a Dalì e lo sforzo che il poeta aveva intrapreso per prendere le distanze da quel folclorismo andaluso, come lo chiama lo stesso Montanelli, nel quale egli stesso voleva rinchiudere il poeta. Proprio questo fu forse la ragione della sfortuna di quell'incontro, di cui Montanelli scrisse così: Lorca, almeno negli ultimi anni della sua vita, sentì tutto il pericolo di lasciare le briglie sul collo alla sua vena andalusa e cercò di metterle addosso un castigliano cilicio. Voleva castigarla. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.